in diretta con la manifestazione che si sta cominciando adesso a Taranto, l'ennesima manifestazione per l'Ilva. Siamo in diretta con il compagno Salvatore. Vai Salvatore. Ciao, un abbraccio a tutti e tutti, è iniziato abbastanza bene, perché già adesso possiamo contare un migliaio di persone circa, così a occhio e croce. Siamo un po' ammassati, forse sembreremo un po' di meno dalle immagini, però ti posso garantire che siamo là, e fra l'altro si sta ingrossando mano a mano. Tenete presente che il percorso non è molto lungo, volutamente l'abbiamo fatto così, attraverso una delle vie principali di questo quartiere, che purtroppo è quello vicinale l'Ilva ed è quello che più subisce e più ha subito nel corso degli anni tutte le porcherie che ha emesso l'Ilva in corso di questi anni. No, siamo, personalmente ti dico, sono molto soddisfatto già di come sta andando, ma credo che mano a mano, durante la serata, più si andrà avanti e più crescerà, perché non so che ore sono, però diciamo che il concentramento è dalle 7:30, se consideri che siamo appena partiti e siamo già un migliaio, mi sembra un eccellente risultato. Certo, senti Salvatore, sono previsti stasera è previsto un collegamento speciale con Piazza Pulita con la 7, no? Sì, esatto. Sarà tutta dedicata all'Ilva, insomma, quindi... Esattamente, ovviamente è stato invitato uno del comitato, una pediatra che già la manifestazione l'ha già... Nella manifestazione del 17 maggio intervenne dal palco, insomma, fu estremamente emozionante quell'intervento, proprio per la sua esperienza, lei si commosse anche, proprio perché è stanca evidentemente di dover ogni giorno diagnosticare un asma, un tumore o quant'altro ai bambini. La presidente dell'AIL e ovviamente il comitato, insomma, non so se chi altro ci possa essere. Beh, la Pecar non la portate, non la fate vedere la Pecar. È il mitico Pecar, oramai è un simbolo che girerà per l'Italia. A breve, diciamo che adesso abbiamo avuto un po' dei ritmi sincopati, perché se consideriamo che questo comitato è nato a qualche giorno del di agosto, insomma, siamo un mese praticamente. Io qui vedo arrivare ancora gente, compagni da tutte parti, perché tanto abbiamo già bloccato il traffico, ovviamente, perché questa è una via centrale del quartiere, quindi come dicevo prima si ingrossa. Ti stavo dicendo, nel corso di un mese, insomma, sono scappati a gambe levate come conigli, ma perché hanno semplicemente la coda di paglia Angeletti, Camusso e Bonanni, nonché Landini. Abbiamo fatto una manifestazione del 17 in pieno agosto, quando c'era la presenza dei ministri, con 2.500-300 persone, sempre vere, con numeri veri, perché poi, come dire, vogliamo evitare di gonfiare delle cose. Certo. È un movimento che cresce, Noi avevamo comunque previsto un intervento in questo quartiere, in questa settimana, no? Per continuare quel filo che abbiamo intrapreso di partecipazione popolare, di protagonismo popolare nel senso vero, di controllo dal basso, di organizzazione dal basso, voglio dire, no? E poi vabbè, l'abbiamo fatto coincidere, certamente, diciamo, quando abbiamo capito di questa diretta, ovviamente l'abbiamo fatto semplicemente coincidere, come dire. Eppure va bene, stiamo in piazza, la piazza come sempre anche allegra, nonostante il problema. Si parla di morte e di quant'altro. Come sempre arriveremo lì, faremo un'assemblea pubblica a microfono aperto. Senti, le prossime scadenze, quindi, Salvatore, c'è in ballo una manifestazione nazionale anche? Guarda, noi ovviamente questa cosa l'abbiamo già pensata. Purtroppo, come vi dicevo, i ritmi sincopati di questo mese, ripeto, in pieno agosto, settimana di Ferragosto, qui si è combinato l'idea di Dio, senza tenere presente poi le riunioni, le assemblee di piazza, nei quartieri e quant'altro, dove 200-300 persone, 400 te le trovavi così, è venuto Guido Viale, per sua stessa missione ha detto che non ha mai avuto tanta gente, no, 500 persone in piazza della Vittoria, dove erano fuggiti i signori. Voglio dire, è tutto un meccanismo, no, che si sta, come dire, come il lievito del pane che sta facendo gonfiare questa massa. Diciamo che il problema adesso è consolidare questo percorso. All'interno di questo è evidente che un momento nazionale l'abbiamo già pensato. Sì, va costruito con i tempi giusti e con le modalità giuste. Costruirlo, bravo Giorgio, costruirlo con i tempi e le dinamiche anche giuste, perché questo è un movimento vero, è un movimento fatto di gente in carne e ossa. Certo, i compagni ci stanno dentro perché su queste battaglie ci sono sempre state, magari hanno anche pagato duramente con arresti e quant'altro, perché quando fai quel tipo di battaglie ovviamente c'è gente che sta arrivando ancora, che ci conosciamo ovviamente, no? Dicevo, quindi c'è un movimento fatto di gente in carne e ossa, gente che magari non ha mai partecipato, no? Sì. A iniziative di questo tipo, certo. Poi dobbiamo tenere presente che qui stiamo, ecco, vedo arrivare ancora bambini con cartelli, con le mascherine. È stupendo, credimi Giorgio, è estremamente emozionante per compagni come me, come te, che da tanti anni una serie di cose ci siamo battuti, dando il sangue da tutte noi stesse, ed è soddisfacente finalmente che si sta iniziando a togliere una ruggine di 50 anni, certo. E questo ovviamente noi lo teniamo presente, no? Nel senso che non possiamo pretendere che dall'oggi al domani si faccia, lo dico virgolettato, la rivoluzione. No, però certo. Io dico che una rivoluzione culturale iniziata in questo territorio, perché il ricatto occupazionale, come puoi pensare, ha pesato sempre tanto tantissimo. Questo meccanismo si sta iniziando a rompere sia nella città ma anche in fabbrica, e questo è importante. E questa è la risposta del territorio, credo che sia quella la cosa più significativa. Dimmi, scusami. Dicevo, la risposta del territorio credo che sia la cosa più significativa complessivamente. Assolutamente sì. No, ma ti aggiungo su questo che l'elemento, cioè qui artatamente era stato messo in contraddizione l'elemento del lavoro con l'elemento dell'ambiente, no? Certo. E in questo hanno contribuito la politica, CGL, CISL, UIL e quant'altro. E ti dico, oggi si è rotto quel meccanismo, perché anche io questo mesetto ho fatto 3 volantinaggini, non è che non avessi mai fatto, insomma, come organizzazione sindacale, come Cobas, eccetera. Però ti dico che proprio sentivi un'area diversa. Cioè, anche nei lavoratori c'è la coscienza oramai che non si può prescindere dall'elemento dell'ambiente, della salute, perché tanti lavoratori poi che intervenite nelle pubbliche assemblee, nel microfono aperto di tutto questo periodo, si autoaccusavano in qualche modo di non aver rotto prima questo meccanismo. E questo è un fatto importante, perché chi conosce la realtà dell'Ilva, che è uno stato a sé stante, lì le norme di questo paese non valgono, grazie alle forme collaborazionistiche di CGL, CISL e UIL, i lavoratori sono sempre stati sotto il tallone, ma sul serio, nel senso peggiore. Voi non avete idea di quanti infortuni non siano mai stati denunciati. I lavoratori non appena provavano a denunciare c'era immediatamente il licenziamento, che solo magari qualche volta grazie a qualche giudice sono rientrati, ma non certamente per la mobilitazione dei sindacati. Ma che cosa vi devo dire? Beh, senti, io penso che per stasera intanto... Continua la diretta. Sì, ti volevo dire... Che mo si sta accodando. È bellissimo, Giorgio, credimi. Veramente... Ti lascio alla manifestazione con un augurio, ovviamente, per la sua riuscita e un invito agli ascoltatori e ascoltatrici a seguire il dibattito su Piazza Pulita, e sicuramente ci risentiremo. No, chiudo solo con una piccola chiosa, no? Sì. Io forse ci sono i problemi, ma senza fare i paraculi, di un movimento tipo la Notav, nel senso che c'è un anelito popolare, come dire, no? Alla partecipazione, c'è una rottura dei meccanismi di divisione, come dire, che mi dà un po' quella sensazione, e credo che da loro certamente abbiamo molto da imparare, e altrettanto certamente credo che se alcuni parametri andranno e saranno costruiti nella direzione giusta, e per adesso i sintomi ci sono tutti, andremo in quella direzione, perché questa è una battaglia lunghissima che certo. Si spegnerà per anni, perché evidentemente è chiaro che Riva non spenderà una lira per mettere a posto, sono tutte piste, un impianto, come dire, di quel genere estremamente obsoleto non potrà mai essere messo a norma, e l'altro ci sarà lo scontro, perché certamente come città non accetteremo di non essere ripagati dallo Stato e da Riva, che sono stati coloro che hanno detenuto quel mostro lì e che hanno fatto quei danni a questo territorio. E chiaramente chiudo con quello che è poi il nostro slogan, il primo striscione che abbiamo tirato, col quale abbiamo sfondato il giorno di CGL CISL-UIL, che è sei diritti e non ricatti, certo. Occupazione, salute, ambiente, reddito, sono le quattro gambe di questo tavolo che stiamo costruendo. Va bene, Salvatore, allora un buon proseguimento per la manifestazione, sicuramente ci risentiremo nei prossimi giorni. Pochissimo, Giorgio, ti sento poco. Ti stavo salutando, ci risentiremo nei prossimi giorni. Sì, sì.